con la domanda. Se trovavo a stare a sette oppure si vedriassi sopra me. Ma siamo presente dove sia, dove abita il sicuro. Emanuela, ecco. Della 177 già è quella che praticamente ci affaccia su Barai, da quella zona lì, quella delle tutte quelle case a schiera lì, la 177 quell'altra che avevano fatto è praticamente alle Pigliatti, dove avete mio fratello, ci hanno sentito la mia etonia, sicuramente dall'altra parte. Finché sono verso le 7 e mezza. Grazie. Allora? Ha scoppiato un rubio. Ma così, l'hanno detto, ha scoppiato la casa, ci sono i pompieri, il corno, si è messo a gridare, la casa, se ne è scappato la mia luce. Sì. Io non l'ho fatto l'anno, ma non ne ha parlato neanche il telegiornale. Con la biga di voi, cioè, adesso con queste palline di Natale che lasciano le luminarie accese. Non ho messo a fare il cortocircuito, come ha fatto la nostra fuoco vicino a casa, e ci ha dato la casa e non ha lasciato nulla. Io l'ho sempre detto, c'è molta gente addirittura che mette i luminari al controllo, ma come fai a mettere i luminari al controllo? Con la presa all'interno, con l'acqua che sta facendo, l'umidità, fanno cortocircuito con le lampadine, ti fa rientrare dentro, miglia burgura brigia, cioè tu ci hai addormentato, ma si fa? Oppure la gente che lascia l'albero Natale la notte acceso per far vedere le luci, ma non esamina tutti, l'albero Natale accende quando tu sei a casa, non hanno luce di umido, perché è pericoloso. E allora, questi codici qua che sono andati scorso, erano a fare la spesa, quando sono tornati lì si sentiva anche male quando hanno visto la casa che ha preso fuoco. Ma sono tutti gli sciabbi che con queste manie, capito? I luminari, le puccioli, sopra sopra i tetti, ma sai che sanno? Sono delle lampadine, mi vanno sempre a corrente, quanto perché l'ha presa, sono a parte fatto quelle lampadine sono in serie, no? Se prima partono tutte, tira fuoco, prende fuoco, e te lo spegni così l'albero di Natale con la plastica che c'hassi. Grazie, saluto che mia moglie mi ha chiamato che dobbiamo andare. Non so, è un visto dopo, anche se non si pensa, anche il televisore stand-by hanno detto così, non si lascia mai. Quella è una cosa che qua ancora non ho capito. Vabbè, ci sentiamo già, saluta la signora, buona uscita, dai, e buon rientro. Ci sentiamo dopo se rientri presto, altrimenti alle prossimine. Ciao. Ti dico la verità che non ho molto voglia di uscire, sono stanco, però lo faccio per dovere perché questo qui è un amico e mi fa molti favori, quindi a Natale se contraccambiamo qualche cosa, è molto eccessivo adesso. E buonanotte. Anche quello c'ho cose da fare già, là. Vai, ci sentiamo più tardi, sei conciso, altrimenti a domani, ciao. Ciao, qua ci sentiamo. No, sono finito, stanco, mamma mia, c'è tanto in brodo. Non lo immagino, dai, no? Lui, mamma mia, sono sciolto, più mi sono ben bevuto due Campari, sono a Dama. Ah, mamma mia, e quindi c'è una batteria, c'è un tamburo. Tamburo, boh. Provavo a fare il capodanno di Trocadero, lo sai dov'è? Non so che non me lo ricordo te, non ho sentito da me la metto, ma quello c'è o no? No, ecco, Trocadero è una cosa Porto Conte è vicino all'hotel del Faro. Ah, quello non è l'imbarcadero? Beh, sì, imbarcadero volevo dire. Che varia, io Trocadero, siccome c'era anche a Sorso un locale del genere, e quello di Martorello ci ha portato conto, ma... Sì, invece fanno il, come si chiama, fanno il capodanno con una scuola di ballo che hanno già un po' di gente da mettere dentro, quindi sai, dove vanno tutti questi che ballano vanno anche i maestri, credo, e se organizzano, perché vanno mai squadra del capodanno loro e non volevano orchestrina. Beh, e qui non fanno niente. No, loro già se la fanno per i fatti loro. Mettono i CD, capito? C'è chi fa lezioni di ballo, se porta il seguito, no? Tutti i suoi allievi se li porta lì. Fanno il cabano tutti quanti assieme. Però c'è un'altra situazione che poco fa mi hanno chiamato e forse c'è un'altra situazione. Oh, bene, cioè si è ricercato praticamente là, perché alcuni livelli giustamente infatti avanti a me qualche decisione in fretta riesci un po' a fare qualcosa, no? Beh, ma in questi giorni, questi giorni, poi l'ultimo giorno che stiamo puntando su quello lì. C'è una cantante anche, una ragazza, ma un macello. Oh, e come mai? Non ti piace, come? No, è questione, non mi piace, bisogna macinare, io devo andare, cioè non è che devo aspettare che un pezzo ci mette 4 giorni a impararlo, no? Ciao maestro, è il casino sempre quello, purtroppo la gente se non apprende, io adesso ho un problema, sono un collega, cioè, c'è più di un anno, come ci metto a fare le cose, guardi un casino Gesù Cristo, cose che abbiamo visto, cose che devi essere già padrone del lavoro, ma ho venuto da l'anno, li sento in capo. Proprio così. Mi ha suonato, quei due campani mi hanno suonato, c'è un canto addosso, c'è un giramento di testa, sono seduto qua ma mi gira la testa. Poi tu che un bimbo. Mi hanno fulminato, guarda, fulminato veramente. Cosa bevi, meno male che me ne sono scappato, se no mi c'erano un po' di gente lì vicino a casa. Dai, fermati. Io lo sai che non sono... Cioè non sono tanto per trattenermi lì al bar, però ma ce l'ho fatta andare via. Il bar è micidiale, io tutte le volte passo a Fertile a fare dei controlli, delle letture la mattina, meno male, oramai l'ho imparato, perché prima o poi lo facciamo presto, ti tratteneva la caffè, la massa caffè, la sigaretta, poi la massa caffè, mamma mia. Ho detto, beh, a me non mi butti di più, adesso passo prima di andarmene. Mezzo giorno e mezzo, almeno un quarto, mi faccio un aperitivo e scappo. Perché se non ti trattengo, è un casino, non so. Come fa? Qui adesso guidandomi, pluvia, oggi ne avrò trovato la pioggia, sotto i ponti dello scorrimento veloce, della Sassari al Ghiero, c'erano al primo ponte i carabinieri, la Guardia della Finanza al terzo ponte, mi sembra, e poi c'era la Polizia Federale praticamente sotto quel ponticello che gira per bancare, non so se c'era presente. Quindi mi dice, tre forze dell'ordine, tutte e tre nella stessa strada, cosa devi controllare? Magari mandati, ma non lo so, non avevo capito dove, mamma mia, no, questo è un'altra cosa, guarda che lì in quel posto c'è un freddo, boia, guarda, cioè mi fa male le mani, le dita, ma facciamo bene, e guarda che sono da presto io sveglio, anche perché dopo stavo parlando un po' di testi, repertorio, scalette, cose varie, quindi sto stampando, portando col computer, poi stampando, poi, quindi se non mi alzo presto non mi basta la giornata intera, ieri ero proprio, non avevo un attimo di tempo, mi sono rimasti 10 minuti giusto, no 10, mezz'ora e più per mangiare a pranzo e poi sono dovuto riuscire velocemente, la sera. Ieri se ti ricordi eravamo forse assieme, No, non velocemente. Comunque, un po' di roba mi è rimasto, però dovuto rimanere sempre attaccato al computer, a fare, poi sono proprio, poi lì, poi là, poi... Insomma, sono stanco, lo so, purtroppo è così. Ascolta, giù qui non ci stai più andando. Giù, fammi capire. Tu al campo? No, che non vado al campo lì è un bel pezzo. Oh, non so più sentito, a parte fa un po' sento neanche a me, lo boh. Ma la verità nemmeno io, l'ho chiamato un sacco di volte, che un DPD anche stamattina, la verità l'ho chiamato, ma non ha risposto, boh, non sta accendendo. Che ti hanno drogato, sì. Lì a Natale, vabbè che sono poi Natale io, ma che ce n'è fatto poco fa? Sì, stavo facendo dei lavori qua, stavo tagliando un po' di roba alla cordice. Quando smetto qua taglio anche questo, così abbiamo finito. Bravo, bravo, ti dici. Riposa tranquillo, riposa tranquillo. Qua ci vediamo, se no lasciami partire, per favore, adesso ti dico una cosa, mi è venuto da ridere, per carità. Guarda, si riesce a capirmi, ma non sai chi è che ha fatto quella presa col prezzo? Quello che parlava con noi in radio, mi stai capendo chi è? Che adesso è uguale a me, mi hai capito? Che adesso è uguale a te, ma come lo faci? Quello è la macchia del gelato, ti ricordi la macchia del gelato? C'è la mano tra... io l'atta lì che abita, cosa ti posso dire, tanta mamma contenuta, guasto e guasto qui, sappi che sono creato per dire, sto parlando, non confondere le cose, ma che abita all'ingresso di Italia a sinistra, basta, aggiungo io. Hai capito? Non parlo con un po' con la persona di nuovo al telefono. Ma tu dimmi che te l'ha detto? Ehi, mi bomba, insomma la firma l'ha detto, già lì. Ho detto, guarda, me lo immaginavo al 100% della luce. Sì, Luzio. Cos'è Luzio? Andiamo giù. E meglio che ho lato, quindi. Andati sempre con i piedi di piombo, perché non sai mai con chi è che fa, eccetera, eccetera, ma chiuso il discorso. Rimuoviamoci sopra, Natalia, a tutti i dì. Caro maestro, te lo di tutto. Scusa, ma a questa ragazza, invece di fare la titale, perché non vuoi lasciare un bifalo? Ah, non si può. No, perché poi c'è un periodo di lavoro, sto lavorando, gli orari di prove non erano di suo gradimento, cioè di suo gradimento, ma erano possibili, visto che lei lavora, quindi alle 5 mesi a sera poteva liberarsi, capito? Quindi una cosa e l'altra, ti ammolla, ho detto qua, voglio fare la serata, è inutile che poi devo lavorare spediti, fare almeno... 20, 15 pezzi al giorno, io ne faccio anche di più, non problemi, conosco tutti quanti, solo che quelli con cui sto provando molti non li conoscono e quindi abbiamo, devo darle parti uno e l'altro, capito, ma non c'era tempo, dovevo dire, guarda, non ce la faccio, fatela da soli, ma mai che ci ho pensato io. Ok, ma che esce questa lavorata? Perché tu vai a prenderla? No, me la faccio io, non ti preoccupare, tu dimmi che ora esce, io già sono disposto, anche se esce alle 8, lo dico, lo sono alle 8 e mezzo. Ah, giusto, essere agguato per queste cose. Natale, guarda che pure arrivo anche a Santo Stefano, però prima a Natale da noi Santo Stefano. E siamo 90 anni fa e arriva pure Santo Bastiano. Che ti supporti, no? E che io sia secondino, che ti faccio lavorare per un tanto. E già la fine muore già. E anche sono un po' collocato già. La malattia è tutto lì che io mi ho l'attareo. E mai io già uso una cosa per coprire. Usa la sciabola. E io l'ho amato con il CRC, così ammazzo di microbi. E proprio prima lo CRC, allora vedi con un colpo di sciabola, così taglia netto. CRC oppure, non lo so, grasso per giunti gli omocinetici. No, il CRC per contatti io uso. Vai, che bello che sei. Quindi non si intende che si mi le bappe rosse. Più che per tutti ce ne dicono le altre cose, ma ragazzi da tutti. Allora li ho fatti anche per scherzare, molto, molto educatamente, ma si può scherzare. Hai capito? C'è Natale e poi c'è Santo Stefano, però. Quindi fate un po' per uno l'altro lì. E anche con lei abbiamo fatto un po' per uno l'altro giorno, di notte. Ma decollato no? No! Non decolli, non decolli, Natale. Sì, no. Dai, la lì che si è calato giù. Non ti preoccupare. No, vabbè, ma quando lo porti, devo far mettere quel berretto che c'ha da capitano. Sì, quello dei gradi. Ehi, qua tu si me ne curato già. Pensa, ti sei messa faccia anelica, se gli ho fatto il cappello. No, allora si è girato, avrei fatto la fotografia, ieri. Fanno tutti. Sì, la macchina è venuta a trovare il resto, via. Ma ti chiamo, pausa non mi posso pulire, ho detto la capitana, io sto bene con il resto. Che dai, ti sì. Io pensavo alla famiglia di Capitano Lucino. No, io sono il Capitano Natalino, che è anche un po' bellissimo. E voi? Scusate, ma non ce la fammi andare a prendere, ciao. Ciao, anche ciao, guarda di la piscina, vedi battesimo. Ciao, già siamo qua, se vuoi entrare. Chiunque voglia entrare, siamo qua. Non problema. E mica che non c'è fronte, però io non ho visto. Riprendi te, poi mi spieghi, perché ti sei messo vicino all'Erica? Non ho capito, come era vicino all'Erica? Oggi è nemmeno incontro. No, perché c'era un po' caldo, a ventilarmi un po', capito? Però mi ha volato il berretto perché lui ha accelerato di colpo, che l'Erica girava più veloce. Beh, così è. Così, no, io ero dentro, tutto bello zaccarrato dentro, portiere chiuse e lui era fuori, però tu detto, ma la parte sbagliata, gli ho detto andate lì, fai il giro. Se si mette dietro chiaramente il flusso dell'elica fa il vento, è parecchio. Poi ho deciso di fare una rullatina, ma farlo camminare un po' sulla pista. Gli ho detto io Natale vieni qua, da quella parte l'ho fatto a sedersi, no? Quindi quando è passato dietro per entrare a sedersi, c'è proprio vento, gli ha rotto il cappello. Natale. Lì bisogna stare anche attenti secondo come ti metti. Ti vado la messa in piega, mi Natale. No, ma era molto per altri motivi. E sono passato là dietro io, non ero manca pure mi da ansia. E infatti, era dietro, il mattino. Finché non si scopre il modo per salire, il modo per scendere. Perché ci sono solamente due modi, un modo per entrare e un modo per scendere, se no ti incasini. Infatti io una volta che ho visto giù l'estate, no? Ricordo che ho sceso una volta in moto, ho trovato. C'è un modo di salire molto particolare, ma il sistema? Quasi tutti. Tutti quelli, sì, per forza, perché non si può entrare come una macchina, capito? Essendo qui la portiera molto alta, devi forse entrare in una certa maniera, perché c'è la cloche in mezzo che dà fastidio. Ma infatti l'ho visto, addirittura uno appoggia prima a sedere, no? E poi si gira come quando si sta mettendo in una entrando dentro una macchinella, una cosa del genere. Esatto, così. Così bisogna fare. Ah, Natali, con i piedi, si guida coi piedi. Non è che venga tanto bene, ma una volta che impari già capisco. Io già sto imparando, a voi. Oh, Natali, per passare in un altro argomento, te l'ha mandato il secondo CD, coso, Enrico, quello della... che avevamo fatto scappicare. Non lo so, non ho internet, non ce l'ho più internet, se non mi mette quell'apparecchio nel fratello non posso fare nulla. Se me lo manda già te lo faccio. Guarda, io ci siamo visti, gli ho detto di mandarlo, non mi ricordavo che internet ci avevi staccato. No, ti ha mandato la seconda copia, praticamente quella del terzo drum. E poi ti ha mandato anche quello dell'acustica, che è molto molto bello, mi ha detto. Oh, bel casino. Ma non l'ho perso adesso che tu non sei collegato, oppure quando ti colleghi ce l'hai. Ma non mi collego, ce l'ho. Ah, perché rimane in posta elettronica. E allora, io guardo la posta e mi arriva, no? Ma non credo che il CD così grosso ti arrivi, Natali. Ma cosa no, mi arrivi tu lì tu e non mi arrivi nei altri. No, fotografie sì, che arrivano. E le fotografie devono arrivare, io gli faccio il CD a lui, a Claudio, perché non glielo faccio il CD di quelle che mi ha mandato. Ah, quelle sì. E io voglio anche io se le foto sì. Tutte le foto le ha mandato l'altra volta e Natalina mi ha fatto il CD, molto bello, veramente. Bravo, molto bravo Natale, bello caspita, c'è tutto, c'è me e lui, c'è una foto che sono il traverso, l'ubbio di Buddha. No, non di lui sicuro, ero pazzino anch'io, sapete che gli pago, caricato è poco già, ma per me come caricato è? Non è caricato fino a per me. Sono sulla scrivania seduta. E siamo anche di mezzo dormito. No, ci sono le macchine in basso, non guarda. Allora vedi che sono quel figlio. Ai, allora aspetta che lo alzo anch'io, così mi senti meglio adesso, ma la sorte. Capito, perché? Mazza. Ma lascialo così, ma io non ho appena lasciarlo più alto, perché è molto bello. Molto bello, mi sto staccando il secco. Non c'è, sta altissimo, A me piace così, anche con la Natalina. No, mamma mia. Dopo mi confondono, c'è altro, mi confondono sempre che abbiano di qui a fare il trigata. Mi ha regalato, c'è me c'è, non c'era da qui, no, questo. E io già rispondo bene, comunque anche con quell'antennina che hai, va bene. Va bene. Prova a te a dare a stanotte più di gas, vuoi vedere quanto arrivi? Dare gas? No, devo, allora, mostro il macchinino lo tengo così al minimo, allora sono proprio al minimo, non c'è, do gas, gas a manetta, vai, 1, 2, 3 prova. Avete mangiato tutti, il cambio del caldo, maledizione, andata lì. Avete aumentato tutti. Tu con l'antenna piccola ti esce una Natalì. No, così qua l'hai attaccato questo. Dopo come ti dici sì. Va benissimo, va benissimo. Io parlo con l'antenna piccola con quella gemella della tua, perché l'altra è smontata. Ma cosa stai parlando? Con la D5 di lui. Io non posso usarla perché che sia stato la clava fessa? No, io ce l'ho a Vortizza sopra, lavora in 10 metri, però con la correttore scritto lavora anche in 11, va molto bene. L'altro è tutto pronto, ho tutto pronto, pensiamo di terminare oggi col lavoro, invece si è messo a piovere, non posso salire la spiaggia. Vediamo domani pomeriggio, se rientro presto me la termino. Metto le ariari, tutto, faccio un bel lavoro, in modo che va bene così. Li ho presi i radiali tutti nuovi, stesso diametro, anche leggermente più fini, da 8 mm. E vanno inettati praticamente in quelli esistenti, che ci sono solo gli anelli, con le boccolette ho preso, e poi ci va la vita con il filetto anche sotto, con il piede. Ora mi veniva un bel lavoro, tutti i suoi tappini, tutto a posto. Ma vediamo. Aspetta che posso. Ecco qui. E vabbè, allora potrebbe andare. Cioè, io ne sto prendendo invece un'altra di antenna da questo boioso. Pugnalario di Vario. Ma come ti vogliamo? 300. Ehi ya! Una bomba lì. E che se la stai prendendo? Aspetta, ma basta, che mi sto ascoltando e dopo forte, mi sto facendo sordo anch'io. Aspetta poco a poco. Ma che te lo fa forte, perché non basta se scendo. Chi è? Chi è? Buttalo via quel microfono. Infatti, poi parti tu la raccogli, no? Ciao Stefano, buonasera, buonasera a Farina, buonasera anche a Claudio. Buonasera anche a te Fra, buonasera, ben ritratto. Mentre il microfono state provando, che okay? Ma tu stai scendo con lo stesso microfono di Stefano Fra? Capo è positivo. Ma le statistiche dicono che quello di Stefano è leggermente più forte, però. Allora, il mio come sta andando? Tu molto bene, va bene. Io ho una metà cento. La metà cento eco power microphone della Intex. Ma anche questo già va bene al microfono. Sì, ma non è molto amplificata, eh. La sento normalissima, fra. Ma che sarà qui se cominciate sempre, comunque. Ah. Ma è sempre amplificata, non è la tutti. Bene, fischiata. Però comincia a fare io, capite perché fa quello. Mi stai mescando. Come? Aspetta, te lo vedo un video. 1, 2, 3, 4. Guarda la modulazione, se è più forte o meno forte poco fa. Adesso va bene. E K, allora lascio così. No, sto facendo quei compiti, sto facendo. Comunque ho calcolato tutto quanto con la scientifica e tutti a occhio. Vabbè, ci riuscite a farla funzionare. K, cioè, ho fatto un calcolo, ho fatto quello di calcoli di occhio, l'ho visto che la risonanza è uguale identica. Deve calcolare bene, chiaramente. Sto K, sta andando bene la studia qua. Allora, se ti calcoli, ma lo vedi, qualche giorno ti porto con me e mi fai un po' di calcoli con la scientifica di erogazione d'acqua, eh? A vedere quanti metri cubi passano, quanti litri al secondo stiamo erogando, così ti esercizi un po'. No, stavo facendo un calcolo, praticamente, guarda, questa qua, guarda, per questo dovrai generare l'oscillatore locale del ricevitore di tipo superficie lottato di media frequenza a 460 kHz, per ricevere segnali di 70-90 kHz, e quindi devi fare la moltiplicazione, fai 460 più 70-90, la risonanza ti dà 7550 kHz, la domanda esatta. 7555. E allora è sbagliato tu, prova a fare 460 più 70, 90 uguale. Uguale? Uguale, tu fai più, allora tu fai, prova a prendere la calcolatrice, 460 più 70, 90 uguale. Chiamami la col 5 finale, secondo me con la calcolatrice c'è qualcosa importante, controllo bene. Quale? scusami, ma cosa c'è, la briga fluttuante la tua? Ma questo non aspetta, avete trovato un quarto di giudizi stasera? Ma scusa, guarda, fai 460 più più è tanta roba, più 60-90 è tanta roba, ma punto 90 70 punto 90 aspetta, la bici è una sera. Adesso tu fai il calcolo, 460 più 70-90 ti dà 7550. Sì, ma la tua calcolatrice cosa ha? La virgola fluttuante o no? Ah, è positivo. Scusate, mi andrà, cosa ho visto fluttuante? Dov'è che la? No, no, no, secondo me ho visto fluttuante. Sto praticamente sulla domanda, sulla risposta esatta, mi dà la tonnellata di queste qua, 7500 kHz, è giusta? Sì, hai ragione. E ce l'avevo io, perché la mia calcolatrice è la virgola fluttuante, quindi è stata impostata male. Ma così, visto la... Ma non puoi dire niente, questo è stato controllo qua, Sì, ma non mi ha detto che sei la virgola fluttuante. Stefani, ma cos'è questa fluttuante? Cos'è una virgola fatta diversamente, cos'è? No, non lo so, Peppe. No, scusa, non è male a te, ma cos'è qua? Scusami, aspetta che sono meglio perché mi sto... Ecco, ecco. Questa struttura fluttuante vuol dire che il punto, facciamo il caso in questa frequenza qui, 27.0, 75.0. Vabbè, comunque, il punto 075, la struttura fluttuante vuol dire che il punto può mettere 2.70 oppure 2.70 punto. Puoi mettere per spostare il punto in tutti i decimali, KK. Quanto mi sei? Io mai sono in tutto tu. Come so, è normalissimo. La calcolatrice, insomma, quella è virgola fluttuante o quella è virgola fissa, che non puoi muovere il puntino, diciamo, ecco. E una di una punto e virgola. È a capo. È chiusa parentesi, vero? Non ce l'ho ancora la calcolatrice. Ma Tali che ne ha comprato una Franco, sembra un televisore con lui. Ma sarebbe anche un po' con l'Europa, non ne comprendo nulla, un computer sta diventando. Non so, ho capito qual è, quella che c'hai tu da riciclovate, se no cos'è la tangente che ti fa tutti i calcoli infinitesimali, giusto? Ma lo sai cos'è te? Una calcolatrice di Marocchino. Una calcolatrice scientifica a te c'è di Marocchino. Sì, però ci avrà anche il seno, cos'è la tangente, ce l'ha scritto sopra nei tasti. E il K, sì, quello sì, c'ha tutto, c'è praticamente. E ancora non è che la conosco bene, ma sto studiando io. Sì. No, le faccio che calcoli serve, perché a monte io sì le fate, ma non mi ricordo più quasi più nulla. A monte, insomma, calcolatrice aiuta parecchio. Allora, questi calcoli che ci sono qua, in questo libro dei tutti, se tu sei usare quella calcolatrice che sai calcolare tutti gli ohm, ritorni sempre alla risonanza della domanda esatta. Sì, ma nel senso di ohm ti parla chiaro, cioè non è che c'è la, non deve scappare, no. R, U, L, R, P, yes, K, ce ne sono poche di roba qua, in questo qui, sì. Perché adesso ho fatto una sfogliata così, che però facciamo un paio di calcoli, dicevo qua nel quaderno anche. Ma perché andiamo a prendere le guida? Così è. Inizia. E qua c'erano due pagine di compiti già fatto, quindi. R1 uguale 10 ohm. 12 più 12 uguale 2,4 ampere, capito? Questi sono tutti i compiti che sto facendo io qua, poi c'è il colore delle resistenze, tutti i valori, tutta questa roba qua. Questa roba devi sapere chiaramente, perché bisogna sapere la matematica, non è buccia di gioca. Non è solo matematica, ma è questione di circuiti elettrici così, con resistenze, capacitori e... È flusso di corrente, quelli li so fare così, a mente, senza essere in parallelo, trovare la risultante, decidere le correnti, da che parte va, quelle lì. Sono fesserie che facciamo a scuola così giocando. Capo, comunque, a parte gli scherzi, c'è tanta di quella roba, oi. E mi gioco. Ma è facile, se lo studi, vai tranquillo, non fai nulla. Io, ripeto, sto cominciando adesso a controllare un po' di cosa, se no non mi viene. Però purtroppo devi preparare, se la vuoi prendere, io me la voglio prendere e ci sto studiando sopra, capito? Perché quando vado a fare l'esame la voglio fare tutta in figura. Sì, ma come sa che il principio di Archimede da studiare? Basta? Dico, se c'è anche il principio di Archimede. No, quello non c'è qua. Qua ci sono normative, libri di quiz, libri di elettronica e un po' di tutte queste cose qua e basta. Tutto qua. Ma poi il principio di Archimede dove sai qual è? Non me lo ricordo, non lo sai proprio, no. Elettromeccanico, dovete sapere queste cose. Ah, no. un perito elettromeccanico, dovresti saperle queste cose. Ma il trasferto ancora a fatto nautico, No, io non sono un perito elettromeccanico, io sono un elettromeccanico, non un perito. Perito è già un altro discorso. Vuoi sapere cosa è... Non fare la tua domanda, frate. Fai la domanda, frate. Tanto la faccio io, in base al tuo lavoro. Ma che la faccia a lui? A chi vuoi, non c'è problema. Poi se lo so, mi dica cos'è una frigoria. Una frigoria. Ma avete parlato in 30. Allora parlo io, parlo. Parla. Ho detto, allora, una caloria lo sappiamo cos'è. In termine tecnico, vabbè, no, è un po' difficile. Ma c'è la caloria e la frigoria. Cosa è la frigoria? La frigoria è un impianto refrigerante. Sbagliato. Dai, dimmelo tu. Natali. L'abbassamento della temperatura. No. Claudio. No. Non ci sono io, non ci arrivo. Scusa, ma c'è la chilocaloria. Qualcuno si è detto nominare, vero? Sì. Ecco, la caloria c'è, quante chilocalorie fornisce con il suo caminetto, un conduttore o una pompa di calore e via dicendo. La frigoria è la cosa inverso. Quindi. Ma la temperatura, ok, quindi. Questo invece la condizionata. Sì, ma che tecnico, quale cos'è una frigoria? La chilocaloria non è un calore energetico. Se vogliamo metterlo sul piano energetico, può essere un valore energetico a livello anatomico o farmaceutico, via dicendo, ma può essere anche considerato solo come una terminologia anche di meccanica o di termica. Io c'è una lì, ci arrivo, ma lui non ho, quel settore non ho fatto io. Ecco. La refrigerazione dell'aria dovrebbe essere là. No. Loro stanno andando sulle enciclopedie adesso, lì, maledetti. Perché sono bastardi dentro. Ma non credo di aver preparato. Non ci sto pensando. Che cos'è la condensazione? No, su. Dimmi che cos'è la condensazione, giù. Tu c'hai il libero davanti, non mi butti a me. Dimmi che cos'è la condensazione. E anche pressione lavora anche la ventilata. La condensazione si trova nei motori di frigoriferi. Dove c'è il ferro. Allora, prima di tutto, tu mi devi, io ti ho fatto una domanda, cioè l'ho fatta a te sicuramente. Una cella ventilata a che pressione con meno di 540 che pressione deve lavorare? No, io non conosco queste terminologie, cioè terminologie, questo problema che tu hai messo non lo conosco, so di cosa stai parlando, ma non è il mio campo. Io ho detto una terminologia normalissima per dire cos'è il chilometro. Chilometro all'ora, cos'è? Io però non lo so, perché voglio sapere cosa. Come deve lavorare una stanza o un frigorifero? Ma io ho capito che tu sei frigorista, hai capito perché ho fatto questa domanda? Allora ho sbagliato. Fra, non sono frigorista, io ho fatto termodinamica, capito? Termodinamica a scuola, qualcosa me la ricordo. Ho fatto termodinamica, ho fatto meccanica, motori a vapore, chiaramente, su motori navali, elettromeccanica, elettrotecnica e altre cose insomma che la fate al nautico, ma le ricordo perché me le ricordo, le studiavo, capito? Però quelle cose lì non me le ricordo. Comunque mi ricordo perfettamente, cioè non mi ricordo, non saprei fare perché non ho avuto l'esperienza di poter mettere proprio così che una persona quello che fai tu, diciamo, a calcolare subito. Io sto dicendo mettere in misura che è la caloria e che è la frigoria. La caloria è una cosa, la frigoria è un'altra. È l'inverso della caloria. Volevo sapere solamente quello, Franco, a te. Capo, è così. No, io ho capito che eri frigorista, sapevo che l'ho fatto questa domanda, ma che detto. Allora questo Claudio, come c'è un nome, ci metto mia suocera là dentro. Ma non c'è un problema, intanto quello minimo di meno 20, meno 18 non scende. Avevo protetto te, che praticamente stavo buttando via. C'erano 22 anni, cioè una ventina d'anni. Si è scaricato e non molto franco. Guarda, è caricato e come diciamo che l'ho comprato. Ma è perfetto fra. Ghiaccia perfettamente, c'è la sua patina nelle pareti, non fa neanche ghiaccio, bello, bello, bello, bello. Peccato che è un po' basso, se no ci avrei messo Anna, vedi. Guarda, c'è Anna, tu, se non mi accanto, io non li curavo di più nel bottetto. Guarda, se metti lì qualcuno sta tranquillo, è un paio d'ore, ma neanche un paio d'ore, un'ora e mezzo, l'ho tutti congelato, non c'ho problemi. Allora, adesso per il gelato, no? Ma no, abbiamo fatto un bel lavoro a stare lì. Ci ho messo anche la valvolina saldata a capo, insoffato, di russo, le pressioni esatte, abbiamo fatto raffreddare, pressione e temperatura, caricata in modo giusto, piano piano. Addirittura quel posto che serve, il compressore inchiodato, lo sai? Ficca, e come hai fatto? E di lì qua cosa gli ho fatto? Se va con la pompa a di freno, diceva 34, la stai formato di pressione, la stai mettendo sbloccata. Perché sbloccare, io ho detto, se un anno mette il bambino giù, e l'anno è caricato, così è. Ah, è positivo, e si conferma. Non so. No, ma alla fine, cioè, prima ho fatto il lavoro, ho saldato tutto, ho messo la valvolina, tutto, poi l'ho visitato a Capramo, ma è perché non ci vulgamo. No, lavoro fatto inutilmente, questo frigo era buttare, l'ho detto io che era da buttare, ho detto no. E poi si dice, a cosa si dice? Adesso non metti da buttare. Io la vita mi si blocca la motore, non è in crisi. Ma tu non mi stai prendendo in giro, però. Non in giro, fai il mestiere, no? C'è anche un attimo, per esempio, non ho bisogno di ciò come sbloccarlo. Comunque, non hai detto cos'è la frigoria, eh? È tutta la rosolia, no? La rosolia, arrosolita, esatto. La frigoria, rosolia, no? Si arrosolisce e si frigorisce. Praticamente il compressore quando si lascia un po' di tempo fermo che manda il freno dall'interno del compressore, ci sono le valvole dell'aspirazione e della compressione, cosa succede? Che si chiude quando c'è l'aspirazione. Quando non c'è il freno va a finire praticamente poi va l'olio che si pesca dal compressore, va fino nel circuito e questo olio qua va a finire praticamente nella condensazione e si mischia, cosa succede? Quando fuori dal gas si scorda un po' altro che puntato proprio l'aspirazione. E quindi praticamente lei ha un colpettino, ha un armato di pressione in più e riesce a bloccarlo qua, lo vedi? Oppure se secondo il caso deve cambiare il compressore, tutto lì. Sono riuscito a bloccarlo, è logico. Ma guarda, si è riuscito a ripreso a funzionare normalmente. Ok, comunque la frigoria, ve lo dico io cos'è, è il calore che dobbiamo togliere da un chilo d'acqua per farla passare da una temperatura di 15,5 gradi centigradi a 14 gradi, 5. Questa è la frigoria in termini tecnici, questa è la caloria, è il contrario, quindi la quantità di calore dobbiamo accedere a un chilo d'acqua finché la sua temperatura passi da 14,5 a 15,5, tutto lì. Bravo, vedi Stefano, le ha studiate queste cose? Ehi, guarda fra, le ho studiate ben anni fa, io manco da scuola da 82 all'Artico, però queste cose, sai, mi piacevano a scuola come meccanica, le cose mi sono rimaste impresse. Ma troppo sto qua, è da parlare come sta andando. Deluscio, anche quello era rosolito. Visto, anche da pagare l'abbiamo sistemato, grazie. Non ti ha fatto pagare? Non ti ha fatto pagare, non ci sono problemi con Claudio. No, lui mi approfitta sempre, lo sai. Anche la famiglia non ti ha lasciato i frigoriferi, però qualcuno già l'ha visto quando il facevo. A me grande grande caso mi ha fatto rifare il pavimento. Ah, io sempre rifacciato, ma se non mi approfitto gli amici io ti ne devo approfittare. Allora, a me la fatto sempre una bella verità. A te già lo so che non ti chiedo mai niente. Come dice? A te non ti chiedo mai niente. Perché a me non vuole bene, capito? Ma poi guarda, ti sto includendo qui per Capodanno. Dai. Ti sto guardando come autista, è scarichino. Ti ho detto non è. Scarichino pure, infatti da dove ti vedo io? Autista di pulmino, di furgone, e come per scaricare la strumentazione e caricare e piazzarla. Beh, allora è... Se ci riesco, ho capito. Ehi, cazzo. Ehi, cappa. Io mi approfitto e mi saluto, dai, ma vado a Nanna, adesso come lo sta. E poi c'ho anche il freddo qua, che mi sono dimenticato di comprare la bombola, tutto lì. Ciao Claudio, ciao Natalino, ciao Stefano, un 7-7-4-3-4, saluto una correata di quarti. Ciao, raccolta le prossimine. Ciao, ciao, io me ne faccio 144. Spendo io allora, fra, buonanotte. Ben ascoltato, fate sentire spesso, si è mancato un pezzo con la frequenza, fate sentire spesso, a te Claudio. E ci conferma, ciao fra, buonanotte, ci aggiorniamo domani allora, vai. Salutone a casa, da parte mia e da parte di Anna Duda, ci sentiamo, buonanotte. Natalino riprendi. Guarda, saluto alle prossime, saluto alla signora, alle prossime. Ciao, cosa ha cambiato la parte mia e la parte della mia 50, là. La parte 1-3. Ok, dai, già ci aggiorniamo, poi per i compiti non ci sono problemi. Una volta che è in Puglia, vediamo cosa si può fare di questa situazione. Tutto qua, ciao ancora, buonanotte, bye bye. Ciao, faccia, riprendite. Ciao di nuovo, riprendo. Sono un po' rasolito, ma quel compagno mi ha la setta ancora. Scusa, mi sono i miei capelli. Per forza, sono andato lì al bar, caffè non lo volevo prendere perché sennò quello che dovevo campare la fanno a cenare e mi ha crepato. Ma Roberto, non si è sentito? No, negativo, ancora non si è sentito. Ma chi? Roberto. No, non ho sentito. Ho chiamato anche nell'espedita, c'era, ma non ho sentito. E magari era in quel posto della sera, verso le 7, capito. E quindi è logico che non... Adesso che ci finiamo in sura. Sì, vabbè, già entra, già non si fa sentire, lui di solito fa un fischio nell'PD, capito? Poi una camera, quando quella fare, senza polemizzare, capito? Oggi giusto a titolo di, intanto non siamo tutti nulla, capito? Che faccia quello che vuole, tanto, si abbia le luci. Gatto, gatto, mica un mandarino mi sto mangiando a te. Sento l'odore. Si sente un po', ma viene a teatro. E io? Beh, vedi che... Volevo farmi la bocca, ma invece mi sto facendo il naso. Hola. Volevo dire di nuovo che mi hanno detto oggi. Ma mi hai detto? Non si può dire. Molto cosa? Insomma. Ehi, ci sono signorina all'ascolto. Infatti non posso. Poi c'è Natalina, non vuole. Poi Natalina si scandalizza, Luca, capolanno, dove sì? Beh, già ne ho più rumo, andato a portare un cestino e non si vede più. Mi sa che c'è lui e il cestino. Ah, ma è finito, non c'è nessuno, Antonio. Antonio, c'è come dura per ti membrare. Nero. Sparito. Oi, oi, oi, oi. E ti mani al microfono. Oi, oi, oi. Oi, oi. Ma è vero, una sorte. Ciao, sto stanco davvero. Mamma mia. Domani faccio un po' di tregua, meno male. Oh no. Sì, sì, domani tregua, mercoledì, ma sì. Poi giovedì proviamo e poi via. Basta. Basta fino a dopo Natale. Anche lì se non hai un po' di tregua poi alla fine esplodi, perché insomma tante cose da fare, non è che io voglio stare a mattonarsi un gabbo, capito? Purtroppo a volte c'è gente che apprende subito, come ti stavo dicendo, oppure c'è quella gente che vi sta appresso e vi sta lì a mattonarsi un dito. Se tu vedi quello che faccio io, non lo so, guarda, è tutto. Io devo fare tutti soli, un mixer, tutti che la batteria, il microfono è una batteria, fare tutti i suoni, puoi mettere tutti i compressori, gli imitatori, noi si mettere tutta la batteria, puoi fare tutte le cose dei cori, piazzare, guarda, non piazzare. Io mi ero ghiotto da parte tecnica, poi della lavorata si occupa altra gente. E quindi ho dovuto fare tutti i collegamenti, le cose, un macello. Stasera poi ho dovuto coordinare tutto, far sì che tutto venisse. Allora che chi ascolta è una cosa piacevole. Le mie sensazioni me le tolgo. Praticamente, ti ripeto, fai sentito. Ne ho sentito più di uno che esce un po' male. So che bisogna adeguarsi, purtroppo, e spiegare. Ma lo sai come si va bene la verità? Quello che faccio io. Quello, vedi, quello si va bene. Thank you. L'ho fatto per questione di spazio, ho capito, perché il basamento dell'MC85 è troppo largo, mi copre le manopole del TS2000. Allora ho messo l'MC60, ma rispetto a gente che io ho sentito, questa è una bella radio anche con l'850. Bella, anche la mia bici, non c'è nessuno mi sente. Ma infatti, io mi sono ascoltato e quella là rimane più limpia perché all'Iclesen dal microfono, quindi regoli, fai delle regolazioni particolari, alla tonalità microfonica dal microfono, il compressore dal microfono, quindi aiuta un po' la modulazione. Questo che non ha niente, che lavora con l'apparecchio solo, figurati che non in AM l'850 il processore non serve, non agisce a differenza del 450, agisce solo in banda laterale, quindi io qui non sto usando neanche il processore, niente, sto usando solo l'MC60 con la posizione amplificata e il mic gain che praticamente sta lavorando a metà, basta. Quindi questo sto facendo senza processore. Tra l'altro devi considerare che c'è il processore e il compressore anche inserito. E il compressore non gli permette di strappare praticamente all'altro, capito? Mi dici che voglio dire? Tanto il processore nella 850 non funziona, la N, non agisce. Su un buone è un po' un buon. Ma solo in banda laterale, perché quello è radio, c'è un fatto per andare in banda laterale, non fai audio. Ecco, capito, non fai ragione, è così, avanti te. Che vedete? Sono dei connettori molto molto resistenti. Vabbè, così mi ha consigliato il maestro delle antenne, già lo sai chi, quello vicino a te, è lui che ti servì, ti l'ha già fatto. C'è meno distorsione, meno tutto, poi gli ho fatto il ricciolo per praticamente l'impedenza, tutto. Sto facendo un bel lavoro, solo del tempo non mi assiste, capito? E praticamente con una spesa di 13 euro sto mettendo, sto facendo l'antenna nuova rispetto a 130 euro che costa. Allievi, quando vuoi un fiore come signora. Chi è? Dai, non conosco la mia voce. E lei, oh mamma mia, aspetta, passano solo. Ho dei danni. Ma si sente lo stesso rumore sottofondo che ho quello. Da poco, vedi, sei lì non ce la fai a... da qui non si sente, ma tu sei lì in casa, c'è poco, senti. Ciao, esami, fanno conto di tu, buonasera. Buonasera, signor Radio di Raio. Chi? Gianni, come si chiama? Stella? Sì, io sono Stella Radio. E la mia è il tipo di Gianni. Ah, beh, la sera, aspetta, poi. A quella di Stefano ha migliorato del 100%. Che certo, se non c'è questo microfono di cantante, è logico. Mamma mia, un mio microfono. Stefano, si può essere mio? Il microfono di cantante gli ho messo, dovrebbe essere il tuo, di che cosa, di mettere serio? Poi, così me lo fa anche a me. Se ti presto questo come se il tuo, voglio vedere come se il tuo da qua e come se il mio da là. Ma tu gli hai fatto quel lavoro? Gli ho fatto un lavoro, sì, infatti per il commento di tutti quanti, qui sono tutti, ho detto chiuso per bene, capito? Ah, ti l'ho fatto al volo? Sì, sì, gli ho fatto un volo, perché l'avevo attaccato prima il nostro malattino. Poi non mi ha soddisfatto, una cosa l'ho attaccato, poi ti ho detto che non sto utilizzando per niente, l'avevo conservato in un cassetto, l'ho buttato lì, poi l'ho preso, se poi ci deve essere ributtato, l'ho preso, l'ho riusato e l'ho messo, fatto una piccola accorgimento e fatto ieri, non che ci ho messo, e quindi sono i figli fuori ancora soldati, ma non ho chiuso neanche lo spinotto. Cazzo, io, vabbè, ci vuole poco per quello. Sì, quello mi lascia problema. Questo è il microfono dell'inquinto. Come sta andando? Ma io ti sento bene, si avvicina ancora un po' al microfono, non di suo, cioè non guasterebbe perché c'è una parte molto bassa. Però la vogliamo vedere. Ecco, così ok. Buon Natale. Va bene, Natale. Ehi. Allora, sì. Adesso non si lascia il testo, si usa le sembra l'altro. Tu lascia il bene. Cazzo, già. E vedrai che c'è... Com'è questo? Meglio. Anche... Che cosa va bene? Se ne dici 5. E qua già mi differenza. Hai notato di radio. Sente buona la tua radio qua, si sente non bella limpida per me, la tua radio è sempre buona, non ho qualche radio unica. Sto usando l'M55, adesso questo che andrò, ecco così dovrebbe essere regolata sopra, 1, 2, 3, 4, c'è il compressore, quelle tipo ricolare. No, quelle ricolare, non fa. funziona la radio anche questa? Non pensavo che fosse con l'MC60. No, questo è l'MC85, no. Abbiamo l'MC85 con il 440 e il praticante alla qua, così c'è la tonalità dell'MC85. Ecco, così invece la tolgo, guarda. Senti la differenza già. Allora, così è senza tonalità, senza i toni dell'MC85, va. Ecco, adesso questi ci sono, c'è il tono inserito, quindi che regola l'automatico del compressore. No, non si può facendo niente, ma lo devo facendo un po' metallico. Perché c'è il compressore inserito, guarda, adesso c'è il compressore sempre del microfono, anche la radio non ti tocca niente. Adesso te l'ho fatto, guarda, così è senza compressore. No, per me va meglio così. Guarda, così è senza compressore, senza compressore, così invece col compressore inserito, che differenza c'è? Una si compressa, altre si fa, si compressa, ma guarda, sono delle tutte due. Non ti pentire mai, lo sai che un domani slitto e compressore slitto, va molto bene. Rispetto al 60 non c'è niente da fare, è tutta la tregua. Comunque ciao, buonasera Marco, ben sentito e niente, grandi vetri di fargli da te. Ciao a tutti, ciao anche a Natalino, a Massa di Volte Natalino che sei qua, se no chiudo la finestra. Stavo andato io, ho fatto quelle vestiti, la sentina è entrato su, vabbè là, salutone a tutti, se me ne vado a letto, va, a vedere tutti. Ciao Natalino. Questo che si vuol dire per salvare i due tabelli che ci usava e le stesso qui, così fa la ma fa sera già c'hai una modulazione diversa. Ciao Natalina, allora rimane lì Natalina ascolto e poi mi direi che cosa c'hai del Behringer, che già hai visto, io sono un fautore della, di tutto quello che è equalizzazione e lavoro sulla, sui fre, sulla modulazione. Ciao a Gianni, e cosa volevo dire? Qua quando gli avevo detto che non ce n'era con 85, quando c'è il 60 per il 60, con la 60 non ce n'è, quando fate però 85 poi fate il secondo piano. Va bene, ma conferma di quello che comunque si era già visto. Allora il cambio per Gianni, avanti Gianni! Caffa. Sarò a me che ce l'ha di questa modulazione, questo è un microfono normale stasera. E infatti c'è una modulazione più cupa, con quasi non sembri più, quasi non sembri più. Guarda già che questo ricevitore è completamente diverso dal test, è molto più acuto e ha molto meno bassi, se c'è la regolazione del tono, qua i bassi sono notevolmente più attenuati, mentre il test ha un audio più piacevole all'ascolto. E niente, non mi sono ancora portato il gusto di provare il microfono a tavolo, perché anche stasera sono stato comprato materiale, mi sono dimenticato di comprare quel connettore che mi serve per questo. Vabbè, per il senso. Lo vedremo domani o dopodomani. Va bene, allora ci aspetta a Claudio che poi farà girare, poi stesso non ci racconterà che cos'ha le idee. No, vai. Cosa ti merita? Vedete, ho un digital composer, compressore 4 posti, nuovo, compressore dinamica che fa limite non scale, compressore a 4, cioè un'unità unica, però ci sono 4 compressori separati. Questo è il digital composer della Behringer, sempre ho 4 mix della Behringer, uno per 2 canali con effetti incorporati e via dicendo, poi costa per un mare di roba. Adesso di tempo cosa ti ho detto dalla Bing, sempre per quello per il lavoro che faccio io. Perché scusate, che lavoro fai non lo so io? Perché sono musicista. Ah, musicista sei, non lo sapevo, che cosa che strumento suoni? E io ho un po' tutto. Diciamo che sono un po' strumentista, dai. Mia moglie è il professore Sergio Forte. Io lo suono, ma ahimè non sono un grande virtuoso, però la fonte graziale è forte, non sono andato a scuola, ho fatto tutto da me. Ho capito. Quindi non so se hai visto su internet, nel sito della Behringer o se invita. Cosa c'è nel sito? Hai mai visto la mia homepage nel sito? Nel sito, la tua homepage non l'ho mai vista. Sì, il collegamento internet hai visto. Momentaneamente no, tutto spento. Vabbè, se no andate a vederla e così vedete come sono organizzato io. Il sito è www.is0kd.tangooscaroscar.indiatango. Praticamente il nominativo è tangooscaroscar.indiatango. E vedi un po' che cosa c'è, ho il MIC 2002, ho il curva il 2496, ho il Superbo, ho l'Ultra Pro, ho l'Ultra Voice, ho il Power Play, ho, no, poi ho visto uno di visto un Behringer a due canali e l'altro a due canali microfono, l'altro è un misto Yamaha, l'MG12-4. Tre microfoni, una capacità come fattore da studio, un canale e un travoce. L'altra curva ce l'ho anch'io. L'ultracurve, l'ultraconto, l'ultracu, il Superbo e l'ultragain. Sì, ma l'ultracurve lo metti in prima o alla fine di tutto? Allora, praticamente il setup che ho qua è per un microfono che è quella condensatore, vado sul Mic 2002, sul Pre e poi vado sull'ultracurve. L'ultra curva è fuori, vado in ingresso del primo miscelatore, del primo mixer, mi serve per regolare i livelli e per utilizzare poi il buffer per gli effetti e tutte quante cose, quelle aumenti, incrementi di dinamica, effetti sottile del suono, eccetera, eccetera. Così posso regolare l'intervento a parte sui tempi di ritardo anche dal mixer. Dopodiché vado sul mixer, sul primo mixer, ecco dal mixer vado sul power play che mi serve ovviamente per miscelare poi le fonti per i vari tipi di apparati, e così sai che ogni apparato ha livelli completamente diversi e ha un setup diverso. Con l'ultracurve faccio l'attualizzazione e dopodiché faccio un gioco sui livelli, l'ingresso in uscita per ogni singolo canale con il power play. Dal power play poi vado al filtri RF choke che sono alta impedenza e bassa impedenza per bloccare le RF perché altrimenti non si possono usare queste cose con il RF, e lì vado poi dopo il filtro dove c'è ancora ovviamente la possibilità di regolare i livelli, dal filtro vado all'apparato telefonato. Un bel lavoretto, io ho fatto il telefonico per diversi anni, in sala incisione quelle cose le conosco meno di tutto. Scusami, ripetimi il sito? www.is0ked.sangooscar.indiatango. Ci sono le foto, guarda, dopo che entri nella home page vai sulle foto e vedi le foto dello stato, però mi presenta che quelle foto sono di un po' di mesi fa, non c'è un altro mixer, e lì ad esempio c'è il microfono da studio, quello che si vede a sinistra, dorato, che conoscerai, è quello da studio della Behringer, che ho sostituito, adesso uso una KG3000B, sempre un microfono professionale ma con caratteristiche metà anche superiori. Sì, scusate se siamo un po' improvvisati. Sì, il microfono li conosco perfettamente. Ci avrai la tua voce, no? Sì, beh, per forza, ho un'istinta del Phantom, perché quello va così, gli altri non hanno bisogno, altri sono dei microfoni dinamici che uso in altre. Quello condensatore lo uso in ACF, in VHS però in STB. Gli altri, quelli dinamici, li uso per le VHS e le UHS. Sì. Va bene. Microfoni anche noi abbiamo parecchi. Questo KG, Sennheiser, poi cosa c'è? Sennheiser KG, Media Dynamic, poi che se cavolo era la Media Dynamic, ma mi sfuggono un paio di marche. Mi sfuggono. Sono cose perché ho fatto i suoni, guarda, sto sempre in sala che era una macella, quindi sono un po' quattro di orecchie, caldo lo prendi, si può fare in parcheggio, spendi. No, vai Gianni, sto mettendo a caricare il telefonino. Vai Gianni, Gianni ha avuto un calo di zucche. Io è da un po' di anni che studio, guarda, non dico che conosco tutto, ma pensando, Carrec, Bellari, Audio Toys, sì, conosco tutto, ho caratteristiche di quasi tutto quello Drauner, cioè dalle sale studio più importanti al mondo, dove incidono i grandi cantanti, da Madonna, Phil Collins, eccetera. Ho praticamente tutto e di più, cioè. Sì, ho capito, ti sono commentato, sì, anch'io lavoro con attrezzature molto molto costose, fino a poco tempo fa, 24 tracce analogico, 24 tracce digitale, 24 tracce sul computer, sincronizzate, un macello, anche centinaia di milioni, qualche mixer, qualche costosissimo, automatizzati, quindi si fa il computer con automazione. Non si interessa, per fare un disco guarda ci vuole l'ingegneria, dunque ingegneria ci vuole. Io per avventurarmi qua ovviamente mi sono dovuto rimettere a studiare, a leggere come funziona un equalizzatore parametrico, come funziona un equalizzatore grafico, come funziona un equalizzatore effetto. E diciamo che se vuoi fare delle cose così come servono, io penso che viaggio qui in sala radio un noise che è intorno ai 60 dB, adesso ti dico, ecco guarda, sto viaggiando da un 50 a un 60 dB di noise dentro la stanza, perché ci sono, come vedi, come hai visto lì, è quella l'inquadratura frontale, poi sul lato ci sono ancora amplificatori e altri apparati. E quando sono qua accendo, perché una cosa piuttosto che un'altra vado a usarla, e deve essere già, non ci deve essere deriva termica, devono essere già operativi. E perciò ventole e rumori, soprattutto le pappe degli amplificatori, fanno un molto indifferente. E per venire fuori qualitativamente alla grande devi per forza lavorare, devi saper lavorare sui filtri e poi ovviamente sull'equalizzazione. Là io normalmente ad esempio uso il 31 band grafico, adesso non sto usando il parametrico e niente, ovviamente il noise non uso destra, perché invece in certi casi uso col 24-96, perché vedo che con la capacità col 3000 non ci sono problemi di filo e la modulazione è veramente strepitosa. Ho fatto dei lavori quando entro a chiacchierare con gli amici, quelli che così come me lavorano con Neumann, con TL103, con Avalon, CT737, con macchine che costano, la modulazione mia non è la meno, nonostante poi questo marzo uso delle cose professionali ma ad un costo ragionevole, diciamo. Già sì, siccome stavo anche a Neumann, avevo due. Lavorare, caspita, belle bestie quelle, belle bestie. L'87 con la membrana della Jessel sono gioielli, stiamo parlando di 2500 euro di microfono, non si scherza. In confronto il mio da 300 euro fa ridere, tra virgolette. Sì, esatto, uno con pazzesco, proprio quello. La capsula è una foglia, una cosa fina, ho anche le altre volte. E se non ricordo male, 4 micron placcata in oro, finita lavorata a mano, c'è tutto, è ancora uno dei pochi microfoni interamente realizzato a mano, è provato per singolo pezzo, che ovviamente il costo è anche in funzione della garanzia di affidabilità, e non a caso tutti i più importanti studi al mondo usano quello e insomma dei microfoni di riferimento, insomma. Va bene, vediamo se Gianni è ritornato, altrimenti cambio per Claudio. Gianni sicuramente è perché se ti chiamo più. È come se ti chiamo. Vorrei il tuo conto. leggermente. Hola. Eccolo qua. Ecco quanto di cosa? Di compro. Mettiti le cuffie, fra, è ovvio che senza cuffie può creare certo lasso. Io tutto quello che tu hai in cose, in materiale, potrei fare quello virtualmente, cioè, vuol dire, potrei passare il microfono unico nella scheda del computer, poi il computer ha un programma, nel programma ci sono dei plugin, non so se hai capito di cosa sto parlando, il plugin ce n'è praticamente uno che mi invia la versione mia a tutti i microfoni di tutti al mondo, fra cui Neumann, Sennheiser, tutti i modelli esistenti al mondo, me li fa tutti quanti, quindi posso utilizzare i microfoni da 13 al litro, anche quelli proprio piccolini, e poi processo la voce con questi plugin, capito? Sì, beh, ormai con la scheda audio si possono fare tante cose, con gli effettini da analogico converti in digitale e puoi lavorare e costruire. Sai benissimo che però non può riprodurre fedelmente delle cose delle sfumature, dei toni che solamente è veramente una scheda audio ma con caratteristiche superlative, altrimenti non è al momento possibile riprodurre fedelmente un 87 se non ce l'hai, o un Beyer Dynamic un Rode, capito? I microfoni che hanno delle prestazioni meticose con una che dà una timbrica calda, bella, piacevole, insomma. Quando effetto dicasi con tutto quello che è possibile riprodurre in maniera digitale, non sempre riesci a portare delle cose a livello di un sistema valvolare, non a caso ancora oggi i migliori tre al mondo, e quando ti ho detto Brown, prima ti ho detto Brown, Bellario, o prodotti del genere, in più importanti studi del mondo, usano ancora i amplificatori a valvole, dove ci sono 6 valvole di TLA, non so usano 6 valvole, le valvole sono sempre ormai all'unisono, tutti chiedono le valvole sovietiche, tipo questa che io uso, una 12x7, e loro ne usano 4 o 6, oppure usano un'altra versione che non è la AX, adesso non ricordo se è Yankee 7 comunque, che si differenziano perché vengono curate con maggiore attenzione nella produzione e hanno una voce, ti danno una preamplificazione, una qualità di suono che è spettacolare. Ma in gamma 80 metri con gli amici col quale mi trovo e facciamo sempre prove, ci sono spesso così come me appassionati, un po' di persone che hanno veramente tutto e di più, hanno provato i software più sofisticati per riprodurre, per fare, sì, fanno delle belle cose, ma mai come un lavoro che può fare un Valley Audio, un Joemec, un Linger Audio, un Valley Laboratory, cioè macchine che costano una fortuna e sono valvolari, prevalentemente sono valvolari. Ma no, io questa presentazione l'ho fatta in studio con un microfono proprio da versione di spazio, ho fatto la comparazione del vero microfono, il vero con prima cantato con il vero microfono, con il vero nome, poi cantato con un microfono normale, tramutato dopodiché in Neumann. E devo dire che la differenza quasi non si notava. Alla fine ho messo un plugin che si chiama Magneto, che mi praticamente tramutava il segnale da digitale. fare analogico, quindi mi scaldavo il suolo con tutta la situazione lavorale, con un foot drive, e veniva fuori una cosa accettabilissima. Sì, sì, beh, tieni presente che io ho fatto prove, non è che passando da una, ecco, ad esempio da questo chiudere, no? da una capacità come questo che è già un microfono a un bollisello, passando a un Neumann, a un TL-103, a un 83, non è che fai i balzi di impedezione, è sempre sul discorso, no? Superato una certa soglia, no? Un primo blocco duro, dopodiché per migliorare leggermente, ma proprio una cosa infinitesimale, i costi si quadruplicano, cioè diventano esponenziali, capito? È chiaro che da zero passare a un primo livello già c'è un forte impatto, perché tu devi mettere a correre un capitano, ma poi non è solo anche il discorso di legionari, perché mi è capitato, mi capita costantemente di sentire gente che ha preso un sacco di soldi e non riesce a fare niente, perché magari poi usa, invece di usare comunque di buona qualità, usa con certe reti, fa casino perché usa linee bilanciate, no, filtra, no, fa usare il pianificatore, tutte equalizzato male, poi gli audiofili sono pochi e i fatti sono tanti, ecco. La realtà qui è anche quella, cioè perché uno può fare anche un buon impianto senza per forza spendere le cifre eccessive. Io personalmente ho un microfono mio personale per cantare, quello è lo Sennheiser, quello biscotto, praticamente quello che è pesantissimo, che usa anche la Rai per fare interviste, presente qual è? A biscotto, ah sì, quello con forma leggermente squadrata. Sì, quello lì, presentato, lungo. Sì, ho capito qual è. È già un microfono che ha un bel po' di anni, ma comunque sempre di buona forma, un dinamico comunque quello. Quello è un dinamico, qui c'è la coesazione, la qualità c'è laggiù, c'è per passare le taglie di frequenza con un microinterruttore che ce l'ha da parte. E tu so qua la ghiera, poi riesci a staccarla, il Canon, una ghiera che sto portando, ma di mettere scatti, di mettere taglio di frequenza qui in coesazione. Il gruppo che non mi ha sempre dato molte soddisfazioni, è sensibilissimo, è difficile da usare perché, cioè ripeto, essendo un microfono professionale, quello prende tutto, se ti viene fuori dalla gola una cosa strana lui la prende, insomma è talmente sensibile, ecco, che è difficile da usare, infatti molti non gli piace perché respiro, faccio tutto, io sono abituato a usarlo, è vecchio, ma insomma è un microfono che non abbandonerò mai, lo utilizzo sempre e mi piace usarlo. È ovvio che più è uno strumento professionale, più necessita un setup accurato e con maggiore attenzione. Caro Stefano, comunque è un bel gioco, poi per me mi piace perché faccio alle volte, dico che magari non sempre c'è propagazione, e allora mi metto lì a fare prove, a fare equalizzazioni, provare una determinata regolazione di questa o un'altra, giocare con l'equalizzatore parametrico analogico invece che usare il digitale, perché se là sul 24 sul tracurve lo sai che c'è un 10 bande parametrico, lì ci vuole veramente capacità da poter regolare per provare delle cose. Ma qui la cosa bestiale è il muro della rigida trasmettitore, perché sai, in cuffie simulare e parlare così è una cosa, poi invece trasmettere un segnale per vedere che cosa stai radiando, come la modulazione cambia completamente, cambia, cioè una modulazione bellissima così all'ascolto, all'uscita del mix, e poi invece una schifezza in trasmissione. Ah sì, hai ragione, non sai mai come stai uscendo, è vero, ma non ti preoccupare, se non sbaglio c'è un programma che utilizzavo sul Macintosh, sull'Apple, utilizzavo per... perché trovo tutti di fronte, insomma, la mia città si chiama come monitor di riferimento, come casse acustiche, e proprio in mezzo al mixer, era un mixer della Lesis, grosso, no, 3-4-2 canali, che rimaneva acceso 24-24, perché altrimenti bisogna spegnere un macello, come che si scaldasse e ottenere quel suono, era un macello. Il secondo, io mi ricordo che lo comandavo tramite un programma che c'era un dischetto, un software, e lì tramite un altro mixer digitale che avevo fatto un'interfaccia a lui, in modo che tutti i slider del mixer mi facessero con un controllo semplice, anziché essere volumi adattati ai canali, erano con un controllo semplice in modo 127 che è di volume, praticamente gli slider del mix li utilizzavo come gli slider del equalizzatore, quindi riuscivo a fare questo lavoro qui. Ah, scappa, ho capito. Ma in quel caso cosa usavi? L'ingresso MIDI nell'ultrafondo? Eh sì, l'ingresso MIDI chiaramente, con un cavetto MIDI normalissimo, lo potevo passare tramite il sincronizzatore del 24 analogico più digitali, il sincronismo sarebbe, per sincronizzare delle macchine con tutto il banco e il computer, perché era anche la scheda MIDI quella, quindi passava lì, poi quel mixerino che avevo, cioè praticamente quel mixer digitale, era come un mixer audio. Quindi lo slider se la vicenda la faceva la funzione sua del volume, ok? Indirizzato verso il mixer, però se io indirizzavo lo stesso slider o gli stessi slider, li indirizzavo da un indirizzo, anche andare lì vai in altre curve, e quegli slider lì fai conto che siano gli slider dell'altra curva, li mettevo al centro, lo slider al centro, e ottenevo praticamente come l'equalizzatore, andavo da 0 a 1 o da 0 a meno 1. Sì, ho capito, insomma ti ricordavi in funzione meccanica i cursori che invece sono presenti digitali sull'ultrafondo. Sì, beh, magari in certi casi in uno studio dove ogni spazio serve allungarsi un problema, ovvio che potrebbe essere una cosa comoda. No, io sull'ultracurve la do direttamente utilizzando i filtri di funzione, a parte che oramai i setup dell'equalizzazione sono stati già fissati, lì ormai dopo averci lavorato per mesi non mi intervengo più su quella macchina, ha tutta una serie di parametri che ormai vanno già bene. E come ti ho detto, per come è impostato e incascata i livelli e in entrata e in uscita e l'equalizzazione, consta solamente di accedere alle memorie e cambiare le memorie che sono già settate per un apparato piuttosto che un altro, ovviamente poi in uscita dall'altra curva, come ti ho detto, vado poi sul mixer e dal mixer vado poi sul power play che mi gestisce i quattro canali per quattro ricettori, così ulteriormente ogni apparato ha i livelli suoi, perché altrimenti ci arrivano farmati, perché i livelli che sono sull'FCD non vanno bene sul 7502, non vanno bene sul 7004, sul 950, eccetera, invece ogni apparato ha un suo canale e ogni apparato ha un suo stato di livelli primari, dopodiché accedo solamente sull'ultracurva per poter stabilire se il stato della voice va bene 1, 2, 3 o 4, quello che ho. Ecco, mi ricordo che sono 200 di fare, io uso solamente un paio, perché infatti dopo quelle prove che ho fatto ho trovato quelle che vanno bene e le ho memorizzate. mentre uso molto comodamente a monte il primo dell'Istero per poter misurare il microfono con le cuffie. Io faccio anche attività molto spesso dove necessita avere non solamente le mani libere ma avere il microfono a distanza ravvicinata dalla bocca, siccome io lavoro sempre in cuffia per abitudine, allora quando ci sono soprattutto da fare il contest o attività particolare di esse uso la cuffia microfono e allora lì non faccio altro che chiudere il livello del microfono esterno prima di girarsi con il dito e utilizzare invece solamente uno dei microfoni. A quel punto là al momento non sto neanche utilizzando l'ultra Q Pro, cioè l'altro equalizzatore parametrico che vedi sul lato destro, non lo sto utilizzando perché in quel caso preferisco lavorare molto più semplicemente con cuffie microfono, livelli direttamente al ricettrasmettitore, per evitare che magari in attività di eco, di collegamento fugace ci possa essere uno stop della macchina o un problema di un overlap di qualcosa, e allora entrare in protezione e perdere quei 5 secondi che sono fondamentali e quindi ti costano magari 2 ore di attesa o addirittura perdere il collegamento. Grazie. stavo facendo la prova in monitor, se no in monitor, su. Vedete? Sì, ma le prendo per fare quelle sì, che è giunta l'ora, che trova giusto anno poi. Signori belli, è stato un piacere anche oggi, tutto questo è stato produttivo, come sempre. E, niente, saluto te Marco e Claudio, alla prossima, buonanotte a tutti entrambi, e vi faccio un po' di sentiamo magari domani o quando sarà. Quindi Marco, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, grazie per questo ottimo sera, continuiamo a chiacchierare, c'è sempre da fare, da dire da provare. Va bene. Se vai col monitor, vedo che lui sente, nonostante quella sia una capsula cardioide che non ha niente a che fare con quella dell'80, perché l'80 è una capsula omnidirezionale, mentre quella. Tutto sembra uguale, ma la capsula non ha niente a che fare. Una è una capsula che costa 10 euro, l'altra è una capsula che ne costa 80. C'è una grande differenza. Quella dell'85 è una capsula cardioide, di qualità superiore a quella dell'MC60. Perciò, nonostante ciò, riesce comunque a evitare il fischio, ma di un certo tanto non può, perché d'altronde amplifica è sempre la presenza di se stesso dell'altoparlante esterno, che è lì a pochi centimetri di distanza. A te ancora per salutare Stefano, ancora un giro e poi anche io me la vado a Nanna, perché domani non è domenica e ancora bisogna produrre, visto che è quasi mezzanotte. Sì, questo è Le Marco, ciao a te, alle prossime, buonanotte, ci aggiorniamo al questione di domani, allora tutto grappa, molto bene, sì, anch'io non mi trattengo perché già tardi e domani mi avrò telefonato anche un po' prima perché ho un appuntamento alle 8 alla Ughiera. Ok, quindi ti saluto Marco, sì, mi sono accorto che con questo incidito mi fa il finesco, mi prende troppo vicino alla radio, insomma c'è qualcosa che lui percepisce, mentre senza compressore va diversamente, anche se pure la tonalità microfonica non è assolutamente inferiore, provate a ascoltarmi, c'ha più medi o bassi col compressore, mentre senza compressore c'ha i medio alti, ma con una tonalità molto molto bella lo stesso, quindi dovrei aspettare così. Va bene, ti saluto, sì, se abbiamo 2 minuti ci facciamo un salto domani, così me lo porto via, perché io l'ho telefonato, mi ha detto che non c'erano problemi, ho dato la porta, non ho potuto farmi di niente. Appunto, mi ha detto se ci riesco provo assieme alla radio di Marco, altrimenti mi troverò dopo, ma siccome io voglio tanto bene. Ma più di tanto vediamo un po', ma ci facciamo un salto, ci facciamo delle chiacchiere, vediamo di rimettere a posto tutto. Va bene, ti saluto e ci sentiamo domani. Io ho preso quei radiali, sono andato a tutti i trattini, non li ho trovati perché sono in sezione più larga e adesso vedrò di cercare da qualche altra parte. Tanto per tutto, devo aspettare che facciano una bella giornata per poter fare con loro, perché devo stare almeno un paio d'ore sul tetto. Devo togliere i vecchi radiali, forare col trattamento a batteria, mettere le viti autofilettanti, quindi devo fare un lavoro, fatto bene. Per cui nel frattempo mi cerco di lesione, insomma, per questi radiali che ho preso, sono 8 mm, i radiali che ho preso. Perché il bocchettone d'ingresso praticamente leggermente più largo è da 10 e quindi questo lavoro deve entrare dentro un bocchettone che già è esistente e qui ci va la vite autofilettante sotto. Va bene, a te ancora Marco, ascolto finale e poi spiego anch'io me la farò andare. Sì, perfetto, lavoro bisogna farlo così come come avevamo detto. Il tempo bisogna aspettare che migliori, anche io devo fare lavori sul tetto e niente, quando ci sarà un paio di giornate di asciugo, anche le tegole viene, se no faccio danni. Aspetto un po' e poi devo andare su e ho un progetto d'antenna in testa da un po' e devo per giù per il piano di sotto e lì devo piegare le antenne a Alice. C'ho un progettino in testa e se mi coincidono i lati giù del terreno guai. Però devo aspettare un po' di un paio di giorni di bel tempo. Va bene, allora ci sentiamo domani, tu togliti con controllati le tasche prima di uscire e speriamo che ti dimentichi di sentirti lascia nel cassetto quel servizio, lascia nel cassetto, assolutamente ti chiamo io comunque. Ciao ciao, buonanotte a tutti. C'è sempre subito, ma è riccio, ecco, fa 33 euro, sono sempre a 33, ma non è che mi dimentico, a volte che ecco, dovremmo fare, dovremmo chiamarti, ma poi con tutte le cose che c'è in testa in questi giorni, anche io sono impegnato, perché sono solo, devo cercare di fare di tutto per liberare dei lavori molto vicini all'ambiente, perché altrimenti mi fanno lavorare in seminario e non mi sono detto a male, quindi non ci sono problemi con il telefono, ma che non mi ricordavo se ti dovevo chiamare, se fuori, boh, è uscito un po' in testa tutta la mano, ma ti chiamo, ci mettiamo d'accordo e facciamo un salto da Rossignano, così c'è pronto il ritiro e c'è una pronta capienza, ma che c'è tutta la festa, così abbiamo modo di farci vecchiare. Va bene, ci aggiorniamo domani, allora ti chiamo io, non ti preoccupare, ti chiamo io in prima serata come canale Rai 1, prima serata. Ti chiamo io e ci facciamo un salto. Eh? Ciao, buonanotte, saluto a tutti, compresi che c'è uno che è il battaglio storico di Sante, non per avere il controllo e lo segnato. Ciao. Va bene, allora ciao, buonanotte Claudio, buonanotte a Gianni che ci sta ancora ascoltando, a Stefano e anche quello qua vicino a casa sarà sul Ragheni però con un orecchio peso. Ciao, buonanotte a tutti e salutiamo anche gli SW che vedo qua il display sono 47 sono entrati che stanno ascoltando. Vabbè, si saranno divertiti anche loro, potranno andare a dormire tranquilli. Ciao, buonanotte, stazione Scorpio, notte in QRT, ciao. Scorpio, dalla 62, bubu, ciao. La 73 c'è la cosa, la faccio subito. Ciao, buonanotte.